We're going to count together up to 11. Owarni jate laga na utu bani na daga warama tamudu bani. Bani, filo, siko, narato, karago, tumu, nyeru, segu, kabu, tamu, tamudu bani, bani, filo, siko, narato, karago, tumu, nyeru, segu, kabu, tamu, tamudu bani, bani, filo, siko, narato, karago, tumu, nyeru, segu, kabu, tamu, tamudu bani. We're going to say the days of the week together. Owarni koen kotanunku. Teningi. Tarata. Araba. Alaramisa. Arjuma. Sibichi. Alahaji. Teningi. Tarata. Araba. Alaramisa. Arjuma. Sibichi. Alahaji. Teningi. Tarata. Araba. Alaramisa. Arjuma. Sibichi. Alahaji. We're going to say the months of the year together. Owarni sinin kasunun turun kono. Masoma. Majona. Mamari. Mabirelli. Mabirero. Majoye. Majoyeli. Majura. Maura. Makankuchi. Manafabire. Madagabire. Masoma. Majona. Mamari. Mabirelli. Mabirero. Majoye. Majoyeli. Majura. Maura. Makankuchi. Manafabire. Madagabire. Masoma. Majona. Mamari. Mabirelli. Mabirero. Majoye. Majoyeli. Majura. Maura. Makankuchi. Manafabire. Madagabire.